Dovevo fare l'udienza per la commissione territoriale, ma ora è bloccato. Quando posso rifarlo? Se dovevi andare a fare la commissione territoriale in questi giorni, chiama il numero della commissione territoriale. Devono darti un'altra data per andare a fare la commissione territoriale. Però cerca di chiamare il numero della commissione territoriale per avere delle informazioni precise, perché adesso anche le commissioni territoriali, come tutti gli uffici, sono chiuse e quindi non si può andare negli uffici della commissione territoriale. Se invece avevi un'udienza davanti al tribunale, anche in questo caso gli uffici del tribunale sono chiusi e quindi ti verrà data un'altra data e devi informarti dal tuo avvocato qual è la nuova data dell'udienza davanti al tribunale. Sono Rocco Agostino, sono un avvocato e mi occupo di immigrazione. Questa che avete ascoltato è solo una delle tante domande che durante l'emergenza coronavirus le ragazze prese in carica nel progetto Libere Tutte hanno rivolto a noi operatrici. Io sono Carmen D'Aletta, psicologa del progetto Libere Tutte nella provincia di Salerno. Le nostre attività in piena emergenza continuano anche a distanza per offrire supporto sanitario, supporto legale e orientamento lavorativo alle potenziali vittime di tratta. Ma continuiamo ancora ad affiancare tutti gli operatori sociali e i volontari dei centri di accoglienza. Per maggiori informazioni potete contattarci allo 089 25 83 316 oppure alla nostra email liberetutte@consorziolarada.it. Vi ricordo inoltre l'appuntamento fisso ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Libere Tutte è un progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud. Noi ci siamo, distanti non vuol dire lontani.